Però a me piace comunque raccontare anche storie inerenti magari ai film, le serie televisive, cultura, insomma, questo genere di argomenti. A-list. Quindi ascoltate, come dice giustamente Pietro. Ovviamente tra i ringraziamenti non posso che mettere anche Gemini Network e Radio Sonar. Beh, che dire, sono veramente felice, vi chiedo scusa ancora per questa attesa, ma l'attesa ovviamente vale, sempre. Esatto, come tutte le attese sono lunghe ma piacevoli. Giustamente, come dice Pietro dalla regia. E, che dire, è stata una settimana molto intensa a livello di argomenti. Io questa prima puntata l'avrei voluta inaugurare parlando sostanzialmente di storia del videogioco. Storia del videogioco che comunque è un argomento molto interessante, da cui derivano tante novità che hanno portato al gaming moderno. Tuttavia, penso che sono successi appunto nel corso di questa settimana una serie di eventi altrettanto importanti, e purtroppo uno drammatico che, come ben tutti saprete, è successo la settimana scorsa, ovvero la morte di Akira Toriyama, autore di Dragon Ball. E però sempre nel corso di questa settimana c'è stato modo di, diciamo, poter vedere tanto affetto da parte di tutto il mondo, dalla scena dei mangaka, ma anche da attori, ma anche da comunemente dai fan, insomma, c'è stata veramente una ondata di affetto che giustamente questo autore meritava. Ma non solo, nel corso sempre di questa settimana si sono svolti altri due eventi, uno inerente ai videogiochi, l'altro invece inerente al cinema. Quello dei videogiochi ve lo tengo per dopo, e anche quello del cinema, anche se penso che in realtà avrete capito che probabilmente parleremo degli Oscar. Ops, ho fatto uno spoiler. Va bene, io però in onore del maestro di appunto Akira Toriyama vorrei mettere questo brano. Quindi prego maestro, andiamo con la sigla giapponese di Dragon Ball GT. Dan, dan, kokoro hikare de. siamo di nuovo in diretta su Eilisten. Questo era un brano dedicato appunto al maestro Toriyama. Chi ben saprà avrà visto anche una tra le opere, diciamo, secondarie da un certo punto di vista, perché la principale comunque è sempre stata Dragon Ball, Dragon Ball Z, però anche Dragon Ball GT ha riacquisito negli anni recenti, diciamo, un pochettino più di popolarità. Poi c'è questo tema musicale in particolare, che è molto emotivo, è molto interessante, molto intrigante, e quindi personalmente credo che sia un ottimo omaggio da fare appunto al maestro. Io ci terrei appunto non a fare il necrologio, come purtroppo è uscito come i giornali, insomma, così purtroppo la notizia la sanno quasi tutti, cioè quasi tutti, tutti ormai, perché è passata una settimana, però io vorrei appunto omaggiare il maestro parlando anche delle sue opere, perché alla fine Toriyama non era solo Dragon Ball, o meglio, per, diciamo, il pubblico mainstream sì, però per il pubblico di videogiocatori è stata anche una figura importante. Importante perché? Perché comunque il suo character design, ovvero come disegnava i personaggi, sono, diciamo, iconici, e in qualche modo hanno influito, volenti o nolenti, anche le sue opere, appunto, come appunto lo stesso Dragon Ball. Mi viene in mente appunto da citare Dragon Quest, Chrono Trigger, lo stesso Dragon Ball con tanti spin-off, capitoli, Budokai, cioè io immagino che comunque le PlayStation di molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici siano state abusate, diciamo, con il controller, con appunto le finisher dei vari personaggi di Dragon Ball, e quindi, insomma, che dire, poi anche Blue Dragon, come non citarlo. E adesso recentemente, proprio l'11 aprile, dovrebbe uscire, anzi no, scusate, ho detto una cavolata, il 3 aprile, credo, vabbè, comunque non ha importanza, insomma, ad aprile dovrebbe uscire un'ultima opera videoludica del maestro, ispirata alle opere del maestro Toriyama, ovvero Sandland. Che dire, Toriyama ha avuto anche modo di collaborare con illustri esperti del mondo dei videogiochi, e come ho detto, ad esempio, proprio per Chrono Trigger, una tra le opere, diciamo, più iconiche, almeno sul campo dei videogiochi, ha avuto modo di lavorare con quello che è stato definito un dream team, addirittura per l'epoca, perché ha lavorato con Yuji Horii, che era sostanzialmente il creatore di Dragon Quest, e beh, penso che un maestro del genere, come Hironobu Sakaguchi, creatore di Final Fantasy, della saga di Final Fantasy, che deve moltissimo anche allo stesso Dragon Quest, beh, diciamo, riunire tre personaggi di questo calibro in un unico, diciamo, in un unico spazio per creare appunto un videogioco di ruolo è sicuramente una grandissima cosa. Bellissimo poi anche l'argomento degli spazi temporali. Io consiglio assolutamente, per chi non l'ha provato, di recuperarlo, tanto è disponibile attualmente su diverse piattaforme, come ad esempio su Steam. Quindi, che dire, grazie maestro Toriyama. Io vorrei riomaggiarlo un'altra volta con un'altra musica sempre inerente però Dragon Ball. In questo caso siamo passati da GT, passiamo a Dragon Ball Z. Prego, maestro. Fly away, fly away. 体中に 地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいねジェットコースター落ちてゆくよパニックの園へ景色逆さになると愉快さ山さえお尻に見える悩む時間はないよどこかにびっくりに会いたいからチャラヘチャラ頭空っぽの方が夢詰め込めるチャラヘチャラ La e Chala, bellissimo brano appunto musicale, sigla di Dragon Ball Z giapponese. Mi dispiace per chi magari non era abituato alle sigle giapponesi, magari pretendeva appunto un What's My Destiny Dragon Ball o Dragon Ball GT del grandissimo Giorgio Vanni, che sicuramente salutiamo e non so se sarà in ascolto, non credo, però comunque lo salutiamo. Ma proprio perché abbiamo parlato di Dragon Ball, io ho una curiosità da fare e da chiedere, diciamo, all'ospite qui presente, poi in realtà è l'aiuto in regia, il nostro caro Pietro. Pietro, allora, ti parlo io che insomma sono generazione 92. Tu, che apporto hai avuto con Dragon Ball? Ti passo un attimo il microfono. Allora, buonasera a tutti e tutti, grazie Andrea e ricordiamo appunto ai listener che questa è la puntata ufficiale numero uno, quella della settimana scorsa che potete riascoltare sul podcast, è la puntata zero. Detto questo, io sono generazione 79, quindi ho giusto un annetto più di te, un annetto e mezza gamba in più di te, ma so dettagli appunto, perfetto Andrea. Io, mia conoscenza di Dragon Ball, guarda, detto sinceramente, è stato inizio anni 2000-2001 e praticamente coincideva con il mio primo barra secondo anno di università, quando praticamente in televisione e precisamente in Mediaset approdò quello che è diventato poi un fenomeno, esatto, quello di Dragon Ball. Quindi la mia conoscenza è relativa soprattutto a quella che è stata una serie di cartoni animati che ha cresciuto o anime, esatto. Io sono un po' ignorante, quindi purtroppo scusate la proprietà di linguaggio non azzeccata, però appunto diciamo che la mia conoscenza quindi è venuta già un'età in cui avevo una ventina d'anni, affascinato da questo, ho un mix fra supereroe, fumetto, sagra, quindi cioè, diciamo racchiudeva un po' quello che finora non era approdato nelle televisioni commerciali, perché poi, vabbè, io sono generazione Gigo Robot d'acciaio e compagnia bella, quindi diciamo anche quella è stata una cosa di, insomma, in cui penso che Andrea ne parlerà in possibilmente, penso prossimamente, magari sicuramente una puntata si potrebbe fare, okay. Però vediamo. Okay. Esatto, d'altronde appunto puntata 1, mille altre di queste puntate, quindi ci sarà. Allora, tornando al discorso di Dragon Ball, poi una volta che ho visto il cartone animato mi sono anche un po' interessato al discorso fumetto, volevo capire che il manga, esatto, che all'epoca, parliamo quindi degli anni 2000, erano abbastanza difficili da trovare, c'erano o le edicole che vendevano specializzate in manga, oppure appunto c'erano le fumetterie, ma erano molto, ma molto meno a portata di mano rispetto a quelle che poi hanno avuto un boom intorno al 2005 in poi. C'è stato proprio un boom di negozi di fumetti e compagnia bella, anche perché appunto dal fumetto si è passato al cartone animato, dal cartone animato si è passato a quello che è diventato il fenomeno merchandising, quindi tutto quello che gira intorno, esatto. Quindi diciamo che la mia conoscenza è prettamente appunto basata su cartone animato e appunto fumetto, manga, il resto purtroppo, come ho già detto appunto nella puntata zero, sono un po' restio, ma non perché non abbia voglia o piacere, ma a una mancanza di tempo. Quindi di approdare a quello che è il mondo anche dei game di Dragon Ball e compagnia bella, che sicuramente tu, come qualsiasi anche ascoltatori, sapranno più di me. Certo, certamente. E che dire, tra l'altro Dragon Ball è il fumetto più venduto, cioè anzi il secondo fumetto più venduto al mondo, con 42 numeri e 519 capitoli, ha venduto circa 260 milioni di copie. Il primo è One Piece. Che quasi comunque da disco d'oro, praticamente sì. Va bene ragazzi, questo era diciamo il mio omaggio per il maestro Toriyama. Adesso vorrei parlare invece di un argomento sempre accaduto nel corso di questa settimana, non secondario, però è passato quasi in secondo piano. Forse nuovo allenatore da Lazio, Martufello? No, non Martufello, che salutiamo gli amici laziali o romanisti, giochiamo, si scherza, logicamente. No, comunque l'argomento principale era sostanzialmente sul compleanno di Super Mario, perché Super Mario il 10 marzo ha un anniversario che è riconosciuto proprio dalla stessa Nintendo, e è passato un po' diciamo sotto piano questo. Hai tante cose, scusami se ti interrompo, poi mi taccio. Il 9 di marzo Barbie ha compiuto anche 65 anni, ma non c'entra niente, auguri. Ma in caso, visto che si parla appunto di ricorrenze, fenomeni, anche insomma penso che Super Mario non è arrivato ai 65, ma speriamo che li superi. Certo, assolutamente, lunga vita a Mario. Comunque, insomma, c'è il 10 marzo questa ricorrenza che si chiama Mar-10, cioè sta scritto Mar-10 perché sarebbe Mario, di marzo. E la gente aveva, diciamo, un po' di curiosità, perché voleva sapere che sicuramente quando c'è questo genere di eventi le società, appunto Nintendo stessa e cose così, organizzano dei mini video, comunque qualcosa che spieghi sostanzialmente se sono in arrivo delle novità. In questo caso diciamo che ci sono state una novità che era abbastanza inaspettata. Il resto era un po', diciamo, non esattamente il massimo, però sono stati comunque due annunci interessanti, ovvero dei remake di alcuni giochi, e uno di questi e Luigi's Mansion 2 HD, che arriverà, il 23 maggio su Nintendo Switch, console che insomma ha una lunga vita ormai dal 2017. Diciamo che per chi non conosce Luigi's Mansion, io ho voluto omaggiare Luigi's Mansion non tanto con una musica inerente al videogioco, ma da una canzone di un film da cui prende insomma ispirazione. E quindi chi se non Ghostbusters non è meglio per, diciamo, omaggiare il fratello di Mario. E prego la regia. Buster, come dice la canzone. In questo caso invece chiamiamo Luigi, perché Luigi nel videogioco di Nintendo uscito nel lontano 2004, beh, in questo caso che uscirà su Nintendo Switch, il secondo capitolo che uscì nel 2013 su Nintendo 3DS, prendiamo i panni per una volta non dell'idraulico baffuto noto come appunto Super Mario, ma come Luigi, e siamo in questa residenza piena di fantasmi, enigmi da sistemare, da risolvere. E niente, e Nintendo durante appunto il Marten ha deciso di omaggiare i suoi utenti annunciando le date di uscita di questi videogiochi che, come ho detto, Luigi's Mansion 2 HD per Nintendo Switch arriverà il 27 giugno. Ci sta, tra gli altri titoli annunciati, anche un remake di un altro gioco che è sempre un RPG giapponese. Per chi non fosse, diciamo, a conoscenza degli RPG giapponesi, sono dei giochi principalmente, diciamo, a turni, cioè nel senso che si presenta un menu dove tu hai questo personaggino e con il personaggino gli dai degli input, degli ordini dove possono fare, ad esempio, delle azioni per attaccare, delle azioni per difendersi o difendere il gruppo, delle azioni per curare o scappare. In poche parole, diciamo, magari un Pokémon per intenderci. E sostanzialmente è uscito, sempre a sorpresa, questo remake di questo videogioco di Nintendo uscito originalmente per GameCube nel lontano 2004, che si chiama Paper Mario e il portale millenario. Questo gioco, chiedo scusa prima agli ascoltatori, ho confuso le date, esce il 23 maggio, mentre invece, ribadisco, Luigi's Mansion 2 uscirà invece a giugno. E è un gioco, anche questo, diciamo che era molto atteso dal pubblico, anche perché era abbastanza scorretto, diciamo, per i tempi. Aveva alcune cose un po' particolari, degli easter egg, che non starò qui a spoilerarvi, perché comunque se uscirà, probabilmente, se non sono stati censurati, magari potrete trovare. Però, comunque, era un videogioco carino, dove avevi, insomma, un gruppo di eroi che doveva abbattere una minaccia, e in questo caso Mario non doveva salvare la principessa Peach, o perlomeno lo doveva fare, ma il nemico principale, diciamo, non era l'insolito Bowser. Ma non vi farò spoiler, come ho già detto. Giocateci, provatelo e fateci sapere. A proposito del farmi sapere, vi annuncio anche che sono presenti i canali social di Radio Eilisten. Il canale, diciamo, principale si trova su Instagram, si chiama eilisten.radio. Quindi se volete seguirci e avere aggiornamenti, riceverete ovviamente aggiornamenti in merito alla trasmissione, ma anche in merito alle altre trasmissioni del gruppo di Pirate Radio. E colgo l'occasione, tra l'altro, di ringraziare la tua radio per i 10 anni, che è una radio che fa parte sempre del gruppo Gemini Network. Ma l'annuncio, diciamo, principale, che comunque ha destato interesse, riguarda il film di Super Mario. Perché? Perché nessuno si poteva aspettare, diciamo, una data di uscita di un prodotto che è uscito sostanzialmente lo scorso anno. E è stato annunciato dallo stesso Shigeru Miyamoto, noto game designer, creatore appunto di Super Mario, ma di anche tantissimi altri videogiochi made in Nintendo, che ci sarà appunto questo film che è in produzione, ed è in produzione con Chris Melandri, che è il capo di Illumination, che è stato appunto lo studio di animazione del film di Super Mario. La data del film è prevista per il 3 aprile del 2026, Speriamo che terranno patto al diciamo all'annuncio, e sicuramente sono previste, diciamo, delle novità, anche perché chi ha visto il film, vedendolo anche fino in fondo, anche qui senza fare degli spoiler, diciamo che ci si può trovare una carina novità, e quindi probabilmente verranno introdotti nuovi personaggi, sempre dell'universo di Mario. Ci saranno tanti easter egg, un po' come anche è capitato con il primo film. E proprio per questo annuncio pensavo di farvi ascoltare una canzone che si trova proprio all'interno di questo film. E prego la regia. Holding Out for a Hero, un pezzo storico che è presente appunto nel film di Super Mario. E proprio perché stiamo parlando di film, a questo punto io passerei a parlare dell'ultimo argomento della puntata odierna di A-Listen. Domenica, nel corso della nottata tra domenica e lunedì, si sono svolti gli Oscar, la notte degli Oscar, che è la notte notoriamente più importante per il mondo del cinema. Sono stati degli Oscar, anzi una, diciamo, cerimonia degli Oscar tutto sommato abbastanza tranquilla, nel senso che non sono successi episodi eclatanti, schiaffi, risse, casini vari di ogni genere che insomma negli anni scorsi si è potuto vedere. È già una notizia, giustamente, però insomma è stata abbastanza monotona questa edizione, nel senso che tutto sommato i premi sono stati affidati in modo sì giusto, però erano anche, come dire, un pochettino diciamo prevedibili. E per chi non sapesse chi ha vinto appunto i premi, vorrei fare appunto un resoconto generico di quello che è accaduto. Allora, nella notte degli Oscar sappiamo che Oppenheimer, film di Nolan, di Christopher Nolan, ha ricevuto la bellezza di 7 premi Oscar. 7 premi su 13, che insomma è un risultato clamoroso. Poi sono susseguiti, diciamo, anche altre pellicole, come ad esempio Povere Creature, ma da anche, diciamo, importante anche La Zona di Interesse, che è un film che è uscito tra le novità del film stranieri e si è aggiudicato 2 premi, come ad esempio il miglior film straniero, andando contro Io Capitano, che è un altro film bellissimo italiano, che purtroppo per Garrone purtroppo non ha portato a termine, diciamo, l'obiettivo dell'Oscar, però comunque La Zona di Interesse è un signor film. Non è detto che tutti i film che vincano gli Oscar diventano grandi film degni di nota, insomma. Ma in questo caso La Zona di Interesse è degno di nota, esatto. È veramente un gran bel film. Ha vinto anche per miglior sonoro, non starò a spiegare perché potrei fare degli spoiler, diciamo, inerenti proprio alla pellicola, però fidatevi del conduttore qui, Andrea, che è un film che va Garrone visto. Garrone è stato quest'estate anche qui al Brancaleone. Ah sì? Sì, sì, è stato qua, mi sembra, verso fine luglio, in quelle che erano, sono state 2 proiezioni di a Stracalta, appunto, che prevedevano anche la partecipazione di Garrone. Di Garrone, beh, interessante. Magari potrà essere un ospite prossimamente nel programma, chi lo sa, speriamo. E purtroppo, mi viene da dire, come migliore canzone ha vinto Barbie. Io dico purtroppo perché sinceramente il film non è che mi abbia fatto particolarmente impazzire. Non ho visto il film, però appunto essendo il fenomeno Barbie è stato un fenomeno, poi c'è stato proprio questo fenomeno Barbie Oppenheimer, che l'estate scorsa è stato veramente come il bullo e il secchione. Beh sì, più o meno cose un po' contrapposte. Sì Pietro. E no, comunque insomma, ma c'è stata questa contrapposizione tra Barbie e Oppenheimer. Ci sono state poi, quando è stata annunciata la lista degli Oscar, delle polemiche, perché per la migliore attrice volevano mettere Margot Robbie non è stata esclusa, però è stata messa come vice, insomma, una protagonista, diciamo, secondaria della pellicola di Barbie. E però Barbie zitta si è portata a casa comunque un premio Oscar, si è portata un premio d'Oscar inerente la migliore canzone, che non è I'm Just Ken, che molti insomma hanno memato, come si dice nei tempi moderni, bensì la canzone fatta da Billie Eilish, che si chiama What Was I Made It For, che vi metterò in ascolto. Prego, regia. paid for, what was I made for? 'Cause in onda su Elisten. Questo è il brano che ha vinto l'Oscar con Barbie come migliore canzone. Ma il vero scandalo, almeno per quanto mi riguarda, riguardo l'edizione di quest'anno dei premi Oscar, è che un autore come Martin Scorsese non sia riuscito a portarsi a casa neanche un premio Oscar, però Barbie con questa canzone, che per carità potrà piacere e rispetto ovviamente gli ascoltatori e le ascoltatrici, è riuscita comunque a portarsi a casa un premio. Vabbè, andiamo avanti. Ad ogni modo, il miglior film di quest'anno è stato Oppenheimer, la migliore regia di Christopher Nolan, che se la vedeva contro appunto lo stesso Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos con Povere Creature, Jonathan Glazer con La Zona di Interesse e Justin Theroux con Anatomia di una Caduta, ha vinto comunque il premio d'Oscar. La migliore attrice, qui è successo diciamo un momento di sorpresa, perché molti si aspettavano che appunto Martin Scorsese riuscisse in qualche modo a portarsi a casa un premio d'Oscar con la magnifica interpretazione di Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon, e invece a spuntarla è stata Emma Stone col personaggio di Povere Creature, che è sicuramente una grandissima prova attoriale, e non a caso ha vinto questo film altre statuette molto importanti che di seguito andremo a vedere. Il miglior attore, come era diciamo facilmente prevedibile, l'ha portata a casa Cillian Murphy con Oppenheimer, e c'era anche Bradley Cooper volendo tra i diciamo contendenti col film Maestro, che però purtroppo anche Maestro non è riuscito a portare a casa un premio. Poi la migliore attrice non protagonista, come dicevo, era stata scelta America Ferrera con Barbie, però invece ha vinto Del Dovers, se non sbaglio. E miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr. con Oppenheimer. E il miglior film straniero è stato appunto La zona di interesse. La miglior sceneggiatura originale, L'anatomia di una caduta. La fotografia migliore, lo stesso Oppenheimer. La scenografia, Povere creature. Il montaggio, Oppenheimer. Insomma, un bordello di titoli, di Oscar guadagnati tra appunto Oppenheimer e Povere creature. Il sonoro se l'è portato a casa appunto La zona di interesse, i costumi, Povere creature, battendo Barbie, che era comunque un grande avversario, diciamo, da questo punto di vista. Il make-up, sempre Povere creature, e la migliore colonna sonora, attenzione, Oppenheimer. Io qui ho un discorso da fare, che ho visto in diretta appunto televisiva, e che mi ha portato appunto a voler portare il discorso degli Oscar nella mia trasmissione. Il vincitore di questo illustre premio d'Oscar è un certo Ludwig Göransson, che comunque è un grandissimo compositore, attenzione, non metto le mani avanti, e ha vinto appunto meritatamente questo premio Oscar, però purtroppo nel momento della cerimonia, dalla community dei videogiocatori è stata presa una frase che è sembrata, diciamo, molto scortese e irrispettosa verso la categoria dei compositori di musiche dei videogiochi, che secondo me è una tra le, diciamo, tra le più importanti fette di, diciamo, dell'industria dei videogiochi, che è stata sminuita da tale Ludwig Göransson nella notte degli Oscar, che ha detto letteralmente che ringraziava i genitori per aver ricevuto come dono degli strumenti musicali, in questo caso una chitarra, e di non aver praticamente mai giocato ai videogiochi, sminuendo i videogiochi e i videogiocatori. Ora, sinceramente, c'era bisogno di una polemica simile in una notte dove ti celebrano? Secondo me, dal mio punto di vista, no. Perché comunque ti stanno celebrando, ti sta guardando tutto il mondo, e tu la prima cosa che ti viene da dire è il videogioco, cioè meno male che non ci ho mai giocato, meglio suonare la chitarra. Per carità, è bellissimo suonare la chitarra, non lo metto in dubbio, ma neanche a sminuire, diciamo, i videogiochi, i videogiocatori e chi ha composto le colonne sonore, perché sono le colonne sonore, la musica, veramente una parte fondamentale del videogioco stesso. Io stesso sono un grandissimo amante delle colonne sonore. Purtroppo questa prima puntata non sono riuscito a metterne tante, ma vorrei far capire appunto al signor Göransson che insomma, di musiche inerenti ai videogiochi ce ne sono diverse e sono tutte veramente meravigliose, considerando che comunque ha scomodato addirittura una figura come Cliff Bleszinski, che è il padre della serie di Gears of War, che giustamente anche lui ha risposto stizzito. Cioè, nel senso, ti stanno celebrando e tu ti metti a sminuire i videogiochi, le musiche. Boh, non lo so, l'ho trovato, diciamo, abbastanza fuori luogo. E proprio perché mi sembra ingiusto chiudere la puntata senza poter omaggiare i videogiochi, io metterei questo tema, che secondo me è uno tra i temi più belli di sempre. Thank you. torniamo in diretta con Elisten. Questo era il tema di Ocarina of Time, il title theme, come viene chiamato, quando appunto si accendeva quella magica console che era il Nintendo 64. Che dire, ragazzi, siamo ai saluti finali, questa puntata è volata. Io vi chiedo ancora un po' scusa per l'inizio, che purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici, però vi ringrazio infinitivamente per essere rimasti collegati e vi annuncio che la prossima puntata sarà giovedì dalle 17 alle 18, stavolta senza problemi tecnici, si spera. E il Brancaleone ovviamente lo ringrazio per ospitarci, per poter fare la diretta. Ringrazio, come ho già detto, Gemini Network, Pirate Radio, Radio Sonar, La Tua Radio, per i 10 anni tra l'altro che hanno compiuto, quindi complimenti ragazzi. E noi ci risentiamo appunto la settimana prossima, giovedì, dalle 17 alle 18. E in conclusione, scusate, i social, mi sono scordato di dire, seguiteci anche sui social, su Instagram, Pirate Radio, e anche elisten.radio per seguire il profilo della trasmissione. Prossimamente arriveranno anche altri social, Discord molto probabilmente, per poter fare anche delle dirette radio, ma ne parleremo prossimamente. Detto questo, concludo la trasmissione con un ultimo pezzo, sempre a tema videogiochi. Il tema è A-Jump Superstar di Super Mario Odyssey, un pezzo di jazz meraviglioso. In questo caso parliamo di una cover fatta dai ragazzi degli 8-bit Big Band e in cooperazione con Grace Kelly. Prego, arrivederci e alla prossima puntata.